Anche tu sei intappato a casa e noi ce la siamo passata qua, abbiamo mangiato bene lo stesso. Marco da questa parte, credo che avessi anche venduto tutto, visto che la 27 è pressoché morta più che mai. Luca, ci sei? Tiappa, no, noi qua l'abbiamo presa casalinga, visto che c'erano anche altre priorità, eccetera. Stavo giusto carrellando con questo apparato perché mi è successo ieri pomeriggio che ho aperto il frigerino che ho in camera e praticamente dell'acqua ghiacciata è piombata su una busta, su un bustone dove c'era questo apparato dentro, che quindi si è fatto una bella doccia, non a immersione, però si è bagnato tutto e l'ho lasciato asciugare bene, prima asciugato a mano, poi asciugato tutta la notte. E stavo provando tutte le funzioni e mi devi dire se sta andando bene di modulazione o se c'è qualsiasi difetto, ecco. K, tu sei come segnale intorno al 9, prendila per buona. Questo smith era lancetta ma sono alquanto tirchi, dai, ecco. E che dire, sì, la 27 purtroppo, sai, c'è chi sta più bene, meno bene. Io personalmente all'inizio di agosto ho passato una delle più brutte influenze degli ultimi tempi, io non ne prendevo quasi mai influenza, ma questa è stata veramente brutta, mi ha proprio debilitato, mi ha veramente fiaccato fisicamente, quindi non sono ancora al 100%, dai. Luca, ci sei? Sì. Allora, questo apparatino qua è un President, te lo dico. Sì, io ho fatto, ecco, l'errore mio è stato non avevamo disponibili test Covid da parte, se no per curiosità l'avrei fatto, però va fatto nella fase attiva, perché se cominci a farlo quando già i sintomi sono in remissione potrebbe non essere più presente il virus nei reagenti, quel pasticcio che è, insomma. E quindi prendiamola per influenza, d'altronde di polmonare non ho avuto niente, solo vomito, febbre, brividi, febbre anche bella 39 oltre, bella pompata, inappetenza, eccetera eccetera, malessere generale, è proprio brutto, guarda, siamo in un periodo veramente brutto, perché qualcuno è stato particolarmente male e purtroppo adesso vediamo cosa i medici cosa riescono a fare. Quindi c'è stato un calo, sai, siamo i soliti 3 o 4, 4 o 5, mancandone uno manca l'altro, cioè da 4 gatti siamo diventati 2 gatti, seppure, anzi stavo provando a chiamare Luca a vedere se era all'ascolto, tanto anche lui credo che sia rimasto a casa oggi. Luca Flipper, ci sei? Non pervenuta. Nicola, una curiosità, potresti provare mettendo un filo di squelch la modalità FM? Ecco qua, modalità FM, qua vedo che sale parecchio di watt. Questo in FM ha molti watt, mi pare siano 13 in AM e roba di una quarantina, forse anche 50 in FM. Però mi interessa solo la timbrica, la qualità della modulazione. Vieni avanti. E ti dirò invece in FM quasi quasi, ti copio meglio in FM, è leggermente più piena la modulazione. E va bene. Poi c'è tutta Europa, persino, pensa Nicola che persino gli spagnoli e i portoghesi si stanno convertendo anche loro all'FM, cioè loro modulavano OM o SSB. Adesso anche spagnoli e portoghesi stanno parlando, quando non sono in SSB sono 90% in FM, cosa incredibile ma vera, ecco. Stanno riscoprendo l'utilità dell'FM. Per esempio l'altro giorno c'era un amico che copiavo proprio nel QRM, da Platamona, zona Platamona, Sorso, una cosa del genere. E gli davo radio 1, passiamo in FM e magicamente si è soppresso il rumore di fondo, proprio soppresso, e lui è passato una radio 3-4 capibilissima e anche chiara, ecco, per farti un esempio. E perché qua magari anziché prediligere una modulazione normale, limpida, no, come trovi anche, tu lo sai che lavoro facevi, no? E quanto erano chiare le comunicazioni di servizio, no? Non c'erano eco, KK, eco colte, rimbombi, modulazioni cupe o metalliche, capito? Cioè lì la qualità, la capibilità deve essere assoluta. E quello che mi prefiggevo io in AM, cioè in 27 era questo. E ancora c'è la cultura del KK, dell'eco colt, a chi spacca più le orecchie all'altro interlocutore, siamo lì, dai. Natalino, ci sei? K, Elba, da chi la radio ha un certo fascino, poi vabbè, chi ha avuto la passione da bambino, insomma, magari mi può capire. Però è un hobby ormai marginale, tutti hanno lo smartphone, tutti sono incollati a se smartphone, mattina, pomeriggio, sera e notte, che sembrano degli zombie. Manco nel film Orwell vedevi tanti teleschermi attaccati alla faccia delle persone. E tant'è, ma sperando che non debba mai servire per vere emergenze il baracchino, visto le tensioni internazionali, qua vogliono la guerra a tutti i costi, o da un fronte o dall'altro, è inutile, stanno aspettando la scintilla, speriamo di no. Bravo, sì, mi pare l'avesse detto Einstein, Dice, non so con quali mezzi verrà combattuta la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà combattuta con le clave e i sassi. È probabile. Vediamo se sul 10 vuole entrare qualcuno. Io ho provato a chiamare due persone, un po' all'appello, tanto sono tutti a casa, mi cosa credi, con la pioggia incombente, anzi doveva piovere forte, non ha piovuto per fortuna, per fortuna, a me non mi cambia niente, io sono già a casa bello rinfrescato. Chi vuole entrare sul 10, avanti. Ok Nicola, dai, buon ascolto, io lascio acceso qua, poi se c'è qualcuno bene, se no pazienza. L'apparato vedo che va, non ha avuto danni, però devo stare attento, vedi, per l'incuria per poco non ci rimetto un apparato, peraltro è quello meno usato. Ok, per il resto l'ho tutto pulito, lucidato e praticamente nuovo di negozio. Ciao Nicola, buon proseguimento di serata e buon tutto. Al limite Nicola, commuta in AM, perché se entrano in AM. Ciao.